America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 dal G8 di Enniskillen in Irlanda del Nord. Mario Platero, una foto di famiglia, la terza seduta plenaria. Questa è stata la mattinata di questo vertice in cui si è parlato anche di Libia, cosa che ci interessa direttamente. Poi la colazione di lavoro. In questo momento i leader sono a porte chiuse, stanno gustando le prelibatezze locali che, devo dire, da quel che ho visto, non credo resteranno uno dei ricordi più significativi di questo vertice. Vorrei darvi un po' di atmosfera, perché questo posto è davvero molto bello. Enniskillen è un posto storico, ha un valore storico importante, c'è un castello del 1400, costruzioni di pietra, c'è una splendida chiesa, poi c'è, c'è l'albergo dove sono riuniti gli otto grandi, che è un po' fuori città, è un grande resort con un campo da golf, devo dire, davvero molto speciale, un campo da golf disegnato da Nick Faldo, che è una delle grandi star del golf mondiale. Insomma, un posto molto speciale, ma Enniskillen è denso di storia anche per altre ragioni, perché l'8 novembre 1987 c'è stato un attentato, un grave attentato del Movimento per la Liberazione Irlandese, 11 morti, 63 ferite e dunque di nuovo storie di tensioni religiose che sono state risolte, come ha detto Barack Obama ieri quando ha parlato davanti a 1800 studenti. Comunque direi, al di là degli incontri del G8, più tardi ci sarà, fra un paio d'ore ci sarà il comunicato finale, resta centrale per questo vertice l'incontro di ieri fra Barack Obama e Vladimir Putin, un incontro che ha rubato la scena al G8 con un'apparizione a sorpresa e con dichiarazioni sulla questione siriana, che resta poi uno degli argomenti centrali. Ecco, questo vertice cosa ha confermato? Ha confermato intanto una freddezza reciproca fra questi due leader, il body language, a vederli uno di fianco all'altro, devo dire, non poteva essere più rigido, ma soprattutto ci hanno detto chiaramente che le posizioni fra Washington e Mosca sulla Siria restano lontanissime. Le uniche concessioni, sentiamo Putin. Ecco, qui Putin dice: le nostre due nazioni sono decise a lavorare insieme per una risoluzione del conflitto in Siria, incoraggeremo l'avvio di una conferenza di pace a Ginevra che includa tutte le parti in causa. Obama ha dovuto prendere atto di non aver convinto il leader russo sull'utilizzo di armi chimiche da parte della Siria, sul superamento di Assad della linea rossa. Insomma, Obama, devo dire, è arrivato a questo vertice, soprattutto sulla questione siriana, un po' indebolito, perché la posizione di Assad, l'alleanza che la Siria è riuscita a fare con Hezbollah, la conquista di Qusair, una serie di progressi compiuti contro i ribelli hanno reso la posizione di Obama difficile. Ecco, qui ammette Obama di avere differenze incolmabili con Putin. Per la Siria, dice, abbiamo diverse prospettive, ma condividiamo un interesse nel garantire che le armi chimiche siano sotto controllo e non siano usate. La soluzione politica è possibile e dunque dobbiamo muoverci verso Ginevra. Cosa significa soluzione politica? Beh, secondo me significa che per alcuni mesi non succederà nulla, per alcuni mesi ciascuno proseguirà per la sua strada. Se dobbiamo immaginare un tracciato, Assad cercherà di restare al potere, di salvare la faccia, del resto sta vincendo, e quindi non credo che prima del 2014, quando scadrà il mandato di Assad, e dunque potrebbe esserci una giustificazione per la sua uscita, ci sarà qualche progresso. La domanda di fondo, dopo 90.000 morti, quanti ce ne vorranno in più? Ecco, il fatto che i due leader abbiano comunque parlato è importante e significativo. Si incontreranno di nuovo in Russia prima del vertice di San Pietroburgo. For decades, the international community sought to strengthen a norm against the use of this type of weapon. Alcune delle interpretazioni politiche di questo vertice in relazione alla Siria le abbiamo avute da Ben Rhodes, che è il numero due del Consiglio per la Sicurezza Nazionale di Barack Obama, e ho chiesto a Rhodes se poteva dirci qualche cosa di più della linea della Casa Bianca nei confronti di Enrico Letta. C'è stato un vertice ieri tra il Presidente del Consiglio italiano e il Presidente americano, il loro primo incontro, e devo dire Rhodes è stato molto espansivo. Ha detto, sappiamo che ci sono state delle decisioni difficili prese in Italia. Ci sono ancora delle sfide importanti. L'Italia è un partner importante per gli Stati Uniti, ma di fatto il presidente Barack Obama ha voluto esprimere, ha detto Rose, tutto il suo appoggio per il programma economico del presidente del Consiglio Enrico Letta. C'è un accordo di fondo sulla crescita, per seguire la crescita, e c'è dunque un accordo, un'alleanza per creare un fronte di paesi europei che vogliono spingere verso la crescita e isolare inevitabilmente la Germania, che continua ad essere piuttosto rigida. Ci sarà un vertice Barack Obama-Merkel proprio domani. Altro punto importante nell'incontro Letta-Obama, la discussione sulla Libia. Di Libia si è parlato adesso, questa mattina, è un argomento centrale al G8. Rhodes dice che sulla Libia gli italiani hanno lavorato moltissimo e dovranno continuare a svolgere un ruolo per appoggiare la transizione in Libia. Diciamo che alcune delle potenze, come per esempio la Gran Bretagna o la Francia, hanno perso un po' di credibilità. Il nostro paese resta dunque in una pole position per cercare di rafforzare l'attuale classe dirigente. Tra l'altro il presidente libico è qui, si è incontrato con i leader del G8, e far sì che queste milizie, pare che ce ne siano centinaia di queste milizie con decine di migliaia di combattenti, piano piano vadano a svanire. Ecco, il contesto del discorso economico tra Letta e Obama è ovviamente un contesto molto più ampio. Oggi cominciano a Washington le riunioni della Federal Reserve. Sappiamo che il presidente Ben Bernanke dovrà usare un linguaggio, diciamo, molto delicato per convincere i mercati che c'è una exit strategy in corso rassicurante. Gli Stati Uniti hanno avviato, lo abbiamo detto più volte, una manovra di riduzione delle spese, i tagli automatici alle spese. Dunque, questa staffetta, dice Obama, si impone. Ha trovato alleati, vi dicevo, l'alleato più importante a questo punto è proprio il presidente del Consiglio Enrico Letta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Oltre a Barack Obama c'è un altro ambasciatore degli Stati Uniti in questo momento nel Regno Unito, Bruce Springsteen. Suonerà stasera in un concerto a Glasgow, in Scozia, prima di venire qui in Irlanda per 5 tappe, Limerick, Cork, Belfast, Kilkenny, che sono già sold out. Springsteen ha origini irlandesi, ha scritto una famosissima canzone per raccontare l'immigrazione irlandese negli Stati Uniti, American Land. Da Enniskillen è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.